I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. I dati di gennaio confermano che per l'auto è davvero una stagione d'oro. Le immatricolazioni sono state oltre 150.000 con un balzo del 17,4% sul gennaio dello scorso anno, che già peraltro segnava un vistoso più 11,5% sullo stesso mese del 2014. Può darsi che influisca anche il risparmio derivante dal forte calo del greggio che ha garantito agli automobilisti italiani uno sconto globale di 7,1 milioni di euro, ma certo contano anche le operazioni aggressive di promozione sugli acquisti e la rinnovata gamma dei modelli che stanno mettendo in campo un po' tutte le case automobilistiche. I consumatori reagiscono positivamente. Il tradizionale sondaggio presso i concessionari, ad esempio, segnala una vera e propria escalation. Nel gennaio 2014 la quota di quanti consideravano elevata l'affluenza presso il proprio autosalone era del 57%, lo scorso anno è salita al 65%, mentre in questo gennaio 2016 è arrivata alla quota record dell'80%. Per FCA, vale a dire la ex Fiat, gennaio è ancora più brillante del dato di mercato, con un più 19,8% pari a 44.700 vetture consegnate appunto in gennaio. Un dato positivo ed è la 13ª rilevazione consecutiva che dà un segno più. A fare da traino gli acquisti di Jeep, più 47,6%, e dei modelli del marchio Fiat, che segnano un 19,7%. Bene anche Alfa e Lancia Chrysler. Non sembra subire particolari contraccolpi anche Volkswagen, che dopo lo scandalo del Dieselgate segna a gennaio un più 20,18%. Si vede che la ritornata euforia da acquisto è più forte della coscienza ambientale, anche se va detto le azioni antismog con i divieti di circolazione per i veicoli troppo vecchi si è dimostrata una delle motivazioni più convincenti per acquistare un'auto nuova. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. L'oro nero cade, l'oro vero sale, le borse cadono. Questo è un po' il ritornello del 2016, con qualche sorpresa. Come molti prevedevano, finché le borse scendono, l'oro sale, ma quello vero. Balzo del 6% soltanto dal 2016, 1127 dollari l'oncia, l'oro nero, il petrolio, sotto i 30 dollari con un calo del 18%. Ma se rapportato poi agli indici di borsa, il distacco che sta acquistando l'oro sulle altre attività finanziarie è impressionante. L'indice Standard & Poor's è in ribasso addirittura dell'8% e 1100 punti sono stati persi soltanto dall'indice Dow Jones. Scende tutto, tecnologia, banche, industria. Quello che non scende è quello che protegge, dicevano una volta i mercati, e non a caso, insieme a loro, corse ai titoli di Stato americani, sempre considerati come il bene rifugio per eccellenza. Quale considerazione possiamo trarre da questi eventi? Sicuramente una: tenete ben d'occhio il mercato dell'oro, perché ogni volta che c'è una variazione dei futures al rialzo, vuol dire che per i titoli quotati sarà una giornata nera. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.